Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nell'estate di 2 anni fa si concludeva positivamente la disavventura di una troupe cinematografica italiana che durante le riprese di un film d'azione in Kenya si era trovata nei guai perché in possesso di armi giocattolo. Il film in questione non è mai stato ufficialmente distribuito, ma ora la redazione del mensile Notturno è riuscita a vederlo e coglie l'occasione per ripercorrere le tappe di questa assurda avventura che ha visto tra i suoi protagonisti anche Emilio Fede, Flavio Briatore e Naomi Campbell. La storia che disseppelliamo non è recentissima. Risale al 2007 e all'epoca una qualche eco sui media la ottenne, più che per il fatto in sé, a causa dei nomi che a un certo punto entrarono in gioco. Il pretesto per ritirarla fuori è che siamo finalmente riusciti a vedere il film intorno al quale tutto è nato. Un action televisivo prodotto dalla Daunia di Luciano Martino e diretto da Michele Massimo Tarantini, che per l'occasione risfoderava il suo vecchio pseudonimo Michael L. Lemick. Il titolo, Il cacciatore di uomini, quello internazionale è The African Game. Gli interpreti principali, l'ottimo Luca Ward, ottimo perché è l'erede più plausibile dei vari Franco Nero, Fabio Testi, Giuliano Gemma, per faccia, presenza e fisicità, oltre al fatto che è credibile come duro. L'inglesina Bryony Efferson e l'ex Bond Girl, campionessa di lotta filippina, Rachel Grant. Martino non è nuovo alle produzioni africane. Nel 1990, per la regia del fratello Sergio, aveva girato in Kenya Mal d'Africa, con Richard Hatch, Eleonora Brigliadori e il magnifico Daniel Green, nella parte di un cattivissimo killer detto il macellaio. Anche nel cacciatore di uomini, di un sicario si parla, un liquidatore professionista che vive a Londra con il suo gatto. Questi è Luca Ward, che è ingaggiato per fare fuori un pezzo grosso libanese, commerciante d'armi. Le armi sono sempre il punctum dolens nella fantasia come nella realtà delle faccende africane. Si trova in Kenya insieme alla Efferson che gli fa da taxista nella savana, trasformato da cacciatore a preda di coloro che gli hanno commissionato l'omicidio e che adesso lo vogliono levare di mezzo. La mente criminale è quella della perfida Rachel Grant. Perché l'Africa è presto detto. Pare che Luciano Martino abbia laggiù delle proprietà e quindi abbia contatti e sappia come muoversi in quel contesto. Stavolta però qualcosa è andato storto. Un giorno all'inizio di luglio del 2008, la polizia keniota fa irruzione sul set di Il cacciatore di uomini. Scattano le manette per il produttore esecutivo, Francesco Papa, e per l'addetto agli effetti speciali, Silvano Scasseddu. L'imputazione è pesante. Importazione abusiva di armi da fuoco, crimine per il quale da quelle parti rischi che ti mettano in galera e buttino via la chiave. Dai 7 ai 15 anni. Al cinema, tutti lo sanno, si usano armi da fuoco modificate in modo che non possano sparare, e quelle la produzione le aveva spedite regolarmente dall'Italia con tutti i permessi del caso. Il problema è che in Africa sono state portate, per usarle nel film, anche delle armi giocattolo, di plastica, senza dichiararle. Si innesca una situazione kafkiana. Papa e Scasseddu vengono arrestati, poi rilasciati su cauzione, poi gli restituiscono i passaporti insieme alla cauzione con tante scuse. Quindi, a sorpresa, a metà luglio, vengono nuovamente arrestati. Li processano all'istante e li rinviano a giudizio per la metà di settembre. Regista e attori, vista l'aria che tira e considerato che la magistratura keniota sta dimostrando in questa assurda faccenda una veemenza quantomeno sospetta, rientrano in Italia. I due imputati passano un bruttissimo quarto d'ora. Intanto loro guadagnano tempo facendosi ricoverare in ospedale. A questo punto entra in gioco una stravagante task force composta da Emilio Fede, Briatore e Naomi Campbell. Quando si dice la realtà romanzesca, Fede, che è amico di uno dei due inquisiti, chiede di intervenire presso le autorità a Briatore, uomo assai influente in Kenya, dove ha possedimenti e interessi economici cospicui. E Briatore, a sua volta, coinvolge nell'operazione di salvataggio l'ex fidanzata Naomi Campbell, che sulle pagine del quotidiano più importante del paese, il Sunday Nation, scrive un appello in favore di Papa e Scasseddu. Le strade sono quelle giuste, perché il 23 di agosto i due vengono finalmente liberati e, passaporti alla mano, si imbarcano su un volo per l'Italia. Alla fine di tutto questo restano un grande spavento, una vicenda che avrebbe tutte le carte in regola per trasformarsi in una sceneggiatura, e un buon film d'azione dal titolo ominoso, The African Game, che è stato visto pubblicamente una sola volta a Roma Fiction Fest nel luglio del 2009. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Davide Pulici Nel continente nero, dal numero 95 luglio 2010 del mensile Notturno. Nel suo libro Manifesto per la felicità, Stefano Bartolini, docente di economia all'Università di Siena, analizza le varie ragioni per cui nella società del benessere permane ovunque un senso di insoddisfazione. Una di queste nasce dalla visione del lavoro come una maledizione divina e non come uno strumento per la realizzazione personale. Lavorerai con sudore. Il lavoro è una punizione talmente grande da essere adeguata a un peccato come quello originale. È per questo che la liberazione dalla maledizione biblica della fatica del lavoro è stata fin dall'inizio una delle promesse più seducenti della crescita economica. Il peso che il lavoro esercita sulle nostre vite sarebbe progressivamente diminuito via via che esso veniva reso sempre più confortevole e produttivo dall'ausilio di macchine di ogni genere. Questa promessa sembra essere in gran parte stata tradita. Sotto il profilo della fatica fisica, l'esperienza lavorativa quotidiana della gran parte degli abitanti dei paesi più ricchi del pianeta è drasticamente migliorata. Non si tratta certamente di un miglioramento secondario, ma scomparso il sudore restano tutte le altre magagne della punizione biblica. Infatti l'esperienza lavorativa degli occidentali viene spesso descritta da parole come stress, pressione, fatica, fretta, eccetera. Le vite segnate dalla fatica fisica, tipiche delle società rurali, sono state spesso sostituite nelle società avanzate da vite segnate dalla fatica mentale. L'evoluzione nel tempo degli indicatori della soddisfazione che gli individui provano per il lavoro fornisce una testimonianza statistica del fatto che il peso che il lavoro esercita nelle vite degli occidentali non tende a diminuire sostanzialmente. Ad esempio, negli Stati Uniti la soddisfazione per il lavoro ha mostrato una tendenza trascurabile all'aumento negli ultimi 30 anni. Questa tendenza è sorprendente e deludente insieme per la teoria economica. Secondo quest'ultima, infatti, sarebbe lecito aspettarsi che la soddisfazione per il lavoro sia fortemente influenzata dal livello delle retribuzioni. Ma il potere d'acquisto di queste ultime è enormemente cresciuto negli ultimi 30 anni. Dunque, se le retribuzioni sono cresciute, perché la soddisfazione per il lavoro è rimasta sostanzialmente stabile? Questa domanda ripropone, rispetto alla soddisfazione per il lavoro, un paradosso del tutto simile a quello della felicità. A sua volta, il paradosso della soddisfazione per il lavoro è una componente importante del paradosso della felicità. Il lavoro assorbe una parte sostanziale del tempo quotidiano degli adulti e la soddisfazione che gli individui provano per il proprio lavoro è una componente fondamentale del loro benessere generale. Dunque, è lecito aspettarsi che la deludente tendenza della soddisfazione per il lavoro abbia avuto un ruolo importante nel determinare la deludente tendenza della felicità. Certamente una parte importante della spiegazione del paradosso della soddisfazione per il lavoro è nella crescita degli orari di lavoro. La promessa della crescita di liberarci dalla fatica del lavoro riguardava in parte sostanziale un aumento del tempo libero e questa promessa è stata in gran parte tradita, soprattutto negli ultimi decenni. Ma un'altra parte importante di essa riguardava il miglioramento della qualità dell'esperienza lavorativa. La qualità delle relazioni con i colleghi ha un'importanza decisiva per la soddisfazione per il lavoro. La percezione della fiducia tra le persone con cui si lavora ha un impatto talmente grande sul benessere da essere stimato pari a quello del 40% del salario. Inoltre, il benessere sul lavoro aumenta quando le relazioni con i superiori sono percepite come improntate al rispetto, alla collaborazione e al sostegno. Lo stile di comunicazione dei dirigenti è fondamentale. I lavori più soddisfacenti sono quelli in cui esso è improntato a questi criteri e i contatti interpersonali sono frequenti. L'importanza dei bisogni di relazionalità, autonomia e autoespressione per il benessere sul lavoro conferma che le motivazioni intrinseche sono una componente fondamentale del benessere. Ne possiamo ricavare una ricetta chiara su cosa dovremmo fare per migliorare la soddisfazione per il lavoro. Lavori più interessanti, meno stressanti, percepiti come dotati di un senso e come mezzo per la costruzione di relazioni e contatti sociali. Come raggiungere questi quattro obiettivi? Le strade da battere sono 1. Aumentare il grado di discrezionalità e autonomia dei lavoratori. 2. Ridurre ciò che nell'organizzazione del lavoro produce stress, pressione, controlli, incentivi. 3. Ridisegnare il contenuto dei processi di lavoro in modo da renderli più interessanti. In generale, la tendenza secolare alla parcellizzazione del lavoro andrebbe limitata. Essa ha giocato un enorme ruolo nell'aumento storico di produttività degli ultimi 2 secoli ed è inestricabilmente connessa all'avvento della società industriale. Oltre che più produttivo, la parcellizzazione rende il lavoro più misurabile e quindi più incentivabile, ma lo rende anche meno interessante. Non ci sono solo benefici in queste scelte di parcellizzazione, ci sono anche costi, ed essi andrebbero considerati. 4. Rendere il lavoro più compatibile con le altre dimensioni della vita. Politiche per la flessibilità degli orari, facilitazioni per tenere i bambini vicino al luogo di lavoro, facilitazioni per lo svolgimento del lavoro a casa, incremento dei permessi per motivi familiari o di studio. 5. Migliorare il contenuto relazionale della vita lavorativa. La cultura di impresa dovrebbe divenire consapevole dell'importanza fondamentale della qualità delle relazioni tra colleghi e tra individui in posizioni differenti nella gerarchia di impresa. La formazione dei dirigenti dovrebbe includere gli aspetti relazionali, come la consapevolezza dell'importanza di un corretto apprezzamento del lavoro altrui e di rapporti improntati al rispetto. Inoltre, la formazione di amicizie sul lavoro dovrebbe essere facilitata. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Stefano Bartolini, Manifesto per la felicità, come passare dalla società del benavere alla società del benessere. Donzelli Editore, 306 pagine, euro 18. Letture di Radio 24. Utilizzare la popolarità di Facebook per promuovere un prodotto può rivelarsi un boomerang. Ne sa qualcosa la Coca-Cola, vittima di una mega bufala che l'ha portata in tribunale con l'accusa di aver utilizzato messaggi pornografici. Facebook non è una terra per dilettanti. Il social network ha festeggiato il 500 milioni di iscritti. Raggiungerli è una sfida decisiva per ogni marchio globale. Il marketing su FB può anche causare gravi imbarazzi, lezione che ha appena imparato a sue spese la Coca-Cola, costretta a scuse precipitose dopo un fugace scandalo a base di pornografia, minorenni e madri inferocite. Per promuovere la Dr. Pepper, una bevanda di cui detiene il marchio globale, ma non negli Stati Uniti, i pubblicitari avevano scelto una campagna virale, di quelle non convenzionali, non immediatamente legate al prodotto e basate sulla condivisione spontanea di un comportamento divertente. Per la Dr. Pepper si erano inventati una campagna di status takeover. Lo status è la parte di un profilo FB più esposta, quella che risponde alla domanda «A che stai pensando?» e che definisce la personalità dell'utente. Cambiarsi lo status a vicenda appena il PC viene lasciato incustodito è la nuova frontiera degli scherzi goliardici tra colleghi o tra studenti. La campagna della Coca-Cola giocava proprio su questo. Non farti cambiare lo status dal tuo amico in vena di scherzi, ma da Dr. Pepper. In 160.000 hanno così aderito e affidato il proprio a un'applicazione che assegnava in modo casuale frasi imbarazzanti del tipo «Chi ha detto che non si può fare pipì nella doccia?». Ogni settimana il più sfortunato avrebbe vinto 1.000 sterline. Lo scherzo collettivo non è piaciuto alla madre di una 14enne di Glasgow, che ha visto sullo status della figlia il riferimento a un film porno tra i più efferati in circolazione, diventato famoso sul web, ironia della sorte, per una campagna virale su YouTube che giocava sul disgusto per i suoi contenuti scatologici. Per sfortuna di Dr. Pepper, la signora si è rivelata molto più abile nell'uso del web sociale rispetto ai guru del marketing pagati dalla Coca-Cola. Ha prima chiamato l'azienda, che ha provato a compensare offrendo a madre e figlia un viaggio a Londra con albergo e teatro nel West End pagati. Lei non ha accettato e, non ammansita, si è sfogata su un social network più piccolo ma più agguerrito di Facebook, Mumsnet, una sorta di sindacato online delle madri. «Provo orrore», ha scritto nel suo post Mrs. Rickman, questo il suo nick, «sono rimasta scioccata perché mia figlia non sapeva di questo film porno e ha cercato informazioni in rete». L'innocenza della giovanissima signorina Rickman è stata preservata dal filtro antipornografia installato sul suo computer, ma la madre ha rincarato la dose. Provo rabbia e disgusto, pretendo le spiegazioni e le scuse. Risultato, il malcontento materno si è diffuso tra le altre madri connesse a Mumsnet e la Coca-Cola ha annullato la campagna, si è scusata pubblicamente e ha annunciato un'indagine interna. Per queste campagne vengono spesso ingaggiate agenzie esterne. I responsabili di questo disastro comunicativo sono i creativi di Lean Mean Fighting Machine, che hanno già curato la promozione di marchi come l'International Herald Tribune, Bacardi e Virgin. Erano stati ingaggiati da pochi mesi. È probabile saranno loro a pagare per tutti. Qualcuno dentro la Coca-Cola dovrà però rimettersi a studiare i social network, perché la bevanda globale è stata di recente anche vittima di una campagna virale su FB. Sulle pagine di molti utenti era apparso il link a un filmato che avrebbe spinto anche il più accanito appassionato di Coca-Cola a non berla mai più. Per vederlo però era necessario premere like, pulsante magico che su Facebook garantisce il contagio di qualunque iniziativa. Invece di avere accesso al video, gli utenti finivano su un questionario personale, una trappola, una truffa in piena regola, per carpire i dati sensibili e commerciali. La Coca-Cola ne era stata soltanto vittima, in questo caso, ma due indizi possono già condurre a una certezza. Facebook, con il suo miliardo di occhi, è una bomba che può esplodere in mano a chiunque. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Ferdinando Cotugno, Porno scherzi da marketing per la Coca-Cola, il web sindacato Mumsnet contro Facebook, dal Riformista del 20 luglio. Si sa che entrare in Facebook è molto facile, mentre uscirne può diventare complicato. Ma a quanto pare nemmeno la morte cancella i nostri nomi dal social network e sono sempre più numerosi i casi di defunti che continuano a parlare e a chiedere amicizia su Facebook. Il 28 ottobre 2009, l'amica Cristiana annota sul wall di Chiara R. Nei suggerimenti del nuovo Facebook c'è scritto che dobbiamo riprendere i contatti perché è tanto che non ci scriviamo. Magari! Chiara, che nella foto di presentazione sorride con aria furba da dietro una grande maschera subacquea, non può rispondere, almeno non materialmente. È stata uccisa da un infarto una domenica di 5 mesi prima, ma continua a esistere nell'universo virtuale, dove un algoritmo la suggerisce periodicamente come amica a una selezione dei 500 milioni di membri del più famoso tra i social network. Si muore mai veramente su Facebook? La domanda ronza da tempo nella testa degli infaticabili programmatori di Mark Zuckerberg, ancora alla ricerca di un software che aggiorni la vita dei fantasmi. All'inizio, quando la maggior parte degli utenti di Facebook era giovane, i decessi erano rari. Ma oggi la compagnia si trova ad affrontare la vecchiaia, spiega al New York Times James E. Katz, docente di storia della comunicazione alla Rutgers University. L'età è una sfida al rialzo, soprattutto nell'era di Internet. Secondo una ricerca di ComScore, la tribù maggiormente in espansione nel popolare social network è quella degli over 65, che nel solo mese di maggio 2010 sono aumentati di 6,5 milioni. Il nodo è l'intensità delle relazioni che allacciamo con gli amici, i colleghi, gli ex fidanzati. Da quando comunichiamo via social network, infatti, capita d'essere aggiornati in tempo reale sullo stato d'animo di una persona che non vediamo da anni o che magari non abbiamo mai visto ed aver completamente perso le tracce di una cugina cara, il vicino di casa trasferitosi all'estero, l'amico del cuore renitente al web. Se il mezzo è tuttora il messaggio, allora Facebook può addirittura in qualche modo garantire l'immortalità. Nessuno ha dimenticato il compleanno di Chiara R., a giudicare dai commenti postati il 29 novembre sul suo wall. Ovunque tu sia, auguri! E oggi ti penso di più. So che festeggerai sicuramente con dell'ottimo vino anche lì dove sei ora. Forse le stesse persone non sarebbero andate fino al cimitero a lasciare un biglietto che il sole o la pioggia avrebbero consumato in poche ore. O invece sì, di più. Eppure, dietro la tenerezza della memoria, c'è qualcosa di innaturale nell'anagrafe online che può resuscitare i morti, ma anche seppellire i vivi. Se all'inizio Facebook cancellava subito il profilo di una persona di cui qualcuno aveva comunicato la scomparsa, oggi chiede una prova. Nonostante questo, l'ingegnere tedesco Simon Tulborn si è ritrovato un giorno commemorato da un amico che, avendo letto della scomparsa di un suo omonimo, aveva girato il necrologio al social network ottenendo l'autorizzazione a dedicargli un memorial sul proprio wall. Un'ipotesi, rivela la portavoce del team di Zuckerberg, Meredith Chin, è associare a chi non c'è più frasi tipo «riposa in pace». «Stiamo studiando un software, ma non possiamo sbagliare», ammette. «Ne va della geografia dell'aldilà». Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesca Paci, Fantasmi su Facebook, dalla Stampa del 19 luglio. Negli ultimi mesi, la vendita di libri elettronici ha superato quella dei libri cartacei. Lo annuncia Amazon, la più grande libreria online. Ma non tutti sono entusiasti. Il sorpasso, straordinario o funesto a seconda dei punti di vista, è avvenuto. Amazon, la libreria online più popolare al mondo, vende più libri elettronici che tradizionali, un trend che appare ormai inarrestabile. Negli ultimi 3 mesi, per ogni 100 libri rilegati venduti, Amazon.com ne ha venduti 143 in versione digitale sul lettore Kindle, ha reso noto la società, precisando che il dato riguarda soltanto le nuove pubblicazioni e non i volumi tascabili. Lo scavalcamento è stato favorito dalla nuova politica dei prezzi di Kindle. Amazon lo ha abbassato di recente a $189 per far fronte alla concorrenza con la popolare tavoletta iPad della Apple, e il boom è solo agli inizi. Il mese scorso il negozio online ha venduto 180 libri su Kindle per ogni 100 libri tradizionali. Un miracolo, se si pensa che il catalogo Kindle include solo 630.000 libri, una minima fetta di tutti i titoli disponibili su Amazon. L'evoluzione digitale dell'editoria sta già spaccando in due il mondo letterario americano. È una panacea, afferma l'autore di thriller James Patterson, il primo a vendere più di 1 milione di libri elettronici grazie ai bestseller della serie Alex Cross. Sono contento se gli ebook aiutano la gente che non ha mai letto a prendere in mano un libro. Si dichiara entusiasta anche il maestro della suspense Stephen King, altro campione mondiale di vendite, che lo scorso aprile ha pubblicato l'edizione ebook della sua ultima fatica Block 8 Billy, un mese prima dell'uscita della versione cartacea edita da Scribner, sussidiaria del colosso Simon & Schuster, negli Stati Uniti e in Canada. E nel febbraio del 2009 lo stesso King aveva scritto una storia in esclusiva per Kindle. Ma se gli autori più commerciali concordano, per ovvi motivi utilitaristici, nell'osannare il nuovo corso, l'entusiasmo si stempera fino a scomparire tra gli scrittori meno letti, poeti in testa. Molti di loro si lamentano del fatto che la poesia contemporanea è quasi completamente assente dal mercato degli ebook. I pochi che riescono a entrarvi denunciano la formattazione infelice subita dalle loro rime nel cyberspazio. Un mio verso di 3 righe è stato trasformato in 1 di 4 per motivi che non hanno nulla a che fare con la poesia, denuncia Billy Collins, uno dei poeti americani più letti. Gli ebook sono l'anatema della poesia, incalza Collins, la cui ultima raccolta di versi, Ballistics, è uscita a febbraio. Ma la vera sfida, secondo alcuni, è semmai un'altra. Lo sforzo degli editori per controllare congelandoli i diritti elettronici degli ebook è iniquo e deve cambiare, sostiene il presidente della Society of Authors britannica, Tom Holland. Le case editrici oggi cercano di avere contratti a tempo indefinito con gli autori per le loro opere in edizioni ebook, in calza, ma stabilire un tetto ai proventi del diritto d'autore è penalizzante nel caso l'ebook si trasformasse in bestseller. Con la crescita del formato ebook e l'assenza dei costi tipici delle edizioni cartacee, conclude Holland, la casa editrice in futuro guadagnerebbe infinitamente più dell'autore. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandra Farkas, Sorpasso. Su Amazon, il libro elettronico batte il cartaceo, dal Corriere della Sera del 21 luglio.